molto voglio, stavo parlando a Natalino prima, adesso sto pranzando. Quindi sto pranzando alle 19.41. Sempre meglio, dai. Minestrone, bello pepato come piace a me, ve lo dico. E ci ha messo anche la pancetta, mamma. Una fine del mondo, Ma contento tu? A me piacciono i sapori forti, pepe, coso. Vabbè, la pancetta è una sua idea, ma è buono veramente. Vediamo se c'è Natalino. Natalino, stai già cenando? Sì, sicuramente, stavo aspettando la Fainé. Stavo aspettando la moglie con la Fainé, quindi sicuramente sta cenando. Lui, almeno che è normale, sta cenando. Tu hai già cenato sicuramente, vero? Sì, naturalmente sì. Adesso se ne parla, da domani a fare colazione. Sì, guarda, la colazione è l'unica cosa che faccio in orario decente, certe volte alle 8, certe volte alle 9, sempre a quell'ora lì, la colazione, però poi tra la colazione e il pranzo c'è un gap terrificante. Di solito sai quando è che mangio in orario? Quando andiamo a mangiare fuori. Andiamo a pigliarci il kebab, che ne so, quando andavamo da Bandiera Gialla, quando andiamo a pigliarci il panino a McDonald's, allora due e mezza. Perché prima si mangiava alle due a casa, mamma usciva dalla scuola alle 2:20, sai, quindi tra una cosa e l'altra alle due. Però quando mangiamo a casa abbiamo questo porco vizio di mangiare tardi. E d'altronde prima io fame non ne ho. Non ne ho, d'altronde uno mangia quando ha fame, non quando orari predefiniti, boh. No, quando gli orari sono fisiologici, però l'importante non è tanto a che ora mangi, ma che cosa mangi. Però quello che ho capito, tu a parte gli orari mangi anche abbastanza male. Quindi così, ma d'altronde, come diceva John Wayne, no, di qualcosa bisogna pulire. Ria, non so chi l'altro l'ha detto, una battuta l'ho sentito già, che qualcosa si deve promuovere, d'altronde non fumo, non bevo, non trompo, fammi almeno mangiare, almeno muoio contento. Su quello non c'è un bravissimo. Non trombare può essere una contraddizione, perché pare che fare molto spesso sia diciamo un po' cattana anche per le malattie della prostata. Per quello già c'è Maria Mano. Federica la parola. Eia. Tanti nomi per chiamarla. E vabbè, adesso non ho voglia di instaurare un corso. Non ho voglia, guarda. Le donne sono troppo complicate, rompe palle. Periodi uno è più predisposto, ma certe volte proprio non. Bene, vabbè Gianfra, dai, mangio, sembra davvero troppo tardi, ok? Guarda, c'era anche Claudio all'ascolto, anche oggi non se la sentivo di parlare per via della gola, ma se lo chiami potrebbe essere all'ascolto, dai. Ciao Gianfra, dai, buona serata. Ok, ciao, che punta anche Manola e la spagnola sola. Quindi ce n'è di un... Va bene, buona mangiata allora, dai, direttamente, non c'è da specificare quando c'è, buona mangiata e poi data a te buona digestione. Questa roba che a me non andrebbe di costo al pronto soccorso. Oh, fare un po' di pancetta e di pepe nel... Guarda, da quel punto di vista io ho uno stomaco distrutto. Lo so, ma questo è quello che dici tu. Non ti credere che ad esempio i fumatori dopo le prime sigarette si sentano male. Ma devi vedere quello che succede dopo anni. Io l'ho visto perché anche per motivi di lavoro ci quanti con quei portacci, ma posso assicurare che siano di gente giovane. Sono più giovani che io. Sono cose talmente brutte che... E quando posso dico anche, no, c'ho da fare, non ci posso passare, io ci mangio gli altri. Ehi, ma meglio non pensarci, dai. Ciao Gianfra, buona serata. Non pensarci a non vedere. Ciao, alle prossime. Gianfranco, un'altra cosa. Anche due. Pensa che per accompagnare questa roba già pepata e grassa, assieme non sto bevendo acqua, sto bevendo una specie di Red Bull, ad alto tenore di caffeina, taurina, quello che c'è di fragolo, di fragola, mi dolce, nauseante, pensa, sto bevendo quello assieme al minestrone. Comunque, almeno per quello siamo quasi ripetuti, ognuno si è ammazzato un po', è così. Ma sai perché? Era già aperto, c'era questo sul tavolo per non stare e aprire altre bibite e cose, allora mi sto tracciando questo. Ti assicuro che comunque è atroce bere un energy drink tipo Red Bull con quel sapore insieme al fine esame, eppure ho fatto anche di peggio, lo immagino perché ho visto tanti, anche colleghi sentiti male, dopo anni o di birra o di bevande gassate, cioè, anch'io c'era da tutto ho mangiato, cioè bevevo, c'era un periodo che avevo sostituito la Sprite con l'acqua, ma poi mi hanno portato. Una volta un, come si poteva definire, un barman, vabbè, uno della discoteca, diciamo, un tipo barman ufficialmente, si è scandalizzato perché mi ha visto mangiare il tramezzino e berci il caffè. Cioè, come fa? Il tramezzino è salato e il caffè è dolce. Perché, vabbè, io lo zucchero giustamente. Vabbè, se bevo la Coca-Cola non è dolce lo stesso, eppure si mangia con la roba salata. Cioè, si beve la Coca-Cola con la roba salata. E vabbè, lui si è scaneggiato un caffè di tramezzino, ma io non ci vedo niente di male. È così. Insomma, l'importante è sempre sapere a cosa si va incontro. Perché poi magari quando non abbiamo, cioè mai io così, ma io provo, eccetera, dimenticando che ha fatto tutte quelle cose. Quando uno è consapevole dice fumo, ma non c'è niente, mi prende cosa mi prende, però no, va bene, rispetto, massimo rispetto per la libertà di me. Sì, vabbè, ma sono cose banali, non è che, vabbè, comunque mangio poco, non è che sia nemmeno di quei mangioni, allora è il problema. Bene, ottimo il minestrone, buono. Oh, ti è scappato un po' il pepe, quello è vero. Però non era niente male. Il pepe poi è bello profumato, il pepe nero, un aroma particolare. Comunque, te l'ho detto, uguale quello detto da John Wayne. Beh. Claudio, ci sei l'ascolto? Claudio? Massimo Ciammigo, c'è in voi. C'è Gianfranco, salutalo. Sono entrato adesso, non voglio parlare. Sono entrato adesso nel vulcano. Ciao Gianfranco. Ciao, ma noi dove stiamo male? Ah, non ho voglia, in questo periodo non mi sento bene. Ho avuto un'influenza allucinante, forse gli antibiotici mi hanno un po' buttato a terra, quindi non ho voglia. C'è sempre sonno, sono stanco. Quella è l'insieme. Già lo sai che c'è quel sotterraneo lì con quei tintacci maledetti. Infatti adesso c'è da andare anche mio cognato, il prossimo anno, ma sto facendo rifornimento, cornetti, aglio, mutande a rovescio, mutande in piombo, tutto questo lì. Sì, la matta viene in varia. No, ma sugli altri due ci fermate anche il medico, non so quanto strano, ho preso un bel capito. È stato 8 giorni antibiotico, quindi è un casino. Infatti, ormai io sono sicuro, perché mi mancano ancora 30 anni per andare, quindi sono tranquillo sotto quel punto di vista. Non mi dovrebbero cercare. No, io sono stato male, ma ero già da quando ero ancora in servizio. via io il 30 di novembre e ancora ero influenzato. Mi era un po' passato, mi è passato il raffreddore e mi è rimasta questo mal di gola, questa roccia, infatti avevo paura di avere appunto le placche, come si dice, no? Capite? Vabbè, comunque adesso sembra sia passato, però ancora non aiuta. No, io quello sarò appunto due mesi fa mi ero dato questo mal di gola che neanche a Russia se ne andava, proprio non antibiotico, ma tutta quella serie solita di forse della gola, ma non ha fatto una massa. E poi piano piano sono andato da solo, come è venuto se ne andato. Che ho commutato il baracchino, che mi viene meglio, che ce l'ho sul lato. Vai Marco, riprendi. Venga. Comunque Gianfra, parlando sempre di mangiare, no? Io mangio cose anche normalissime, no? Per esempio, se lo racconto a Pomponio, ho mangiato cosa con le cipolle, se mangio quello sto male tutta la notte, com'è possibile? O è troppo delicato lui, perché sono cose normalissime che di cui parlo, è sempre così mi dice, ho mangiato qualcosa, sono stato tutta la notte a vomiti, a nausea, allora c'è pure qualche problema lui, io ho già uno stomaco distrutto abbastanza, e vabbè, cosa vuoi ti dica? Bene, comunque era buono, è buono, buono, un po' troppo pepato però, era veramente buono. Guarda, diciamo che lo stomaco è un po' come un pezzo di ferro, no? Ogni stomaco c'ha il suo spessore, e prima o poi il trapano bucate a uno e all'altro, quello un po' più grosso, più robusto, magari fa più tempo a bucarlo, però una volta che lo buca si possa assicurare che le crepe del stomaco sono iniziate, poi il dolore che ti dà, i disturbi che ti dà, i cuori stanno a terra, sono casuali per le ferite peggiori, anche in guerra sono quelle addominali, mentre sono lo stomaco, sono devastanti dal punto di vista del dolore, quindi c'è ben ragione di dirsi se lo mangia molto male. Perché proprio da dolori micidiali. Venga, comunque è pur vero, mi Gianfra, che io mangio cose, d'altronde sono cose normali, non è che mangi chiodi, vetro, chiodi, puntina da disegno. Sono cose normali, qualcuno, sono stato tutta la notte a diarrea, a vomiti, com'è possibile? Vabbè, dai. Mi Claudio, domani volevo andare da Nicco di mattina a Pomponio, me l'ha detto, solo che io di mattina non riesco a alzarmi, non ci riesco, casomai ci vado di sera, non ci riesco la mattina, non esiste, sono talmente rincoglionito che non riesco né a parlare né a camminare, cioè tanto ad addormentarmi, ma grazie a Dio quando mi addormento poi è tragico alzarsi, capito Claudio? Sì, stamattina gli ho dato un passaggio io, ero una decina di giorni che non ci scendevo perché appunto non stavo uscendo. Stamattina sono uscito a prendere una cosa, ho trovato lì, c'era lui e Giuseppe, l'ho portato su io, Antonello, gli ho detto, se vuole scendere di mattina va, se lo prendo, però di sera io non esco, capito? Io una volta che rientro a casa poi non esco più, non mi va di uscire, per quello forse te l'ha detto, capito? Ho detto chiamami se vuoi uscire a metà mattinata, non di certo alle 10, io a quell'ora non esco, esco verso mezzogiorno così, fino a luna e poi me ne rientro a casa, capito? Ma Giuseppe vive lì? Giuseppe va a fare la commissione a fratello tutti i giorni, e meno male che deve fare Giuseppe le commissioni a Nico, so come fa a muoversi. Ah, per quello, ma spero che qualcosetta gliela dia, dai. Beh, sicuramente sì, non so, però Giuseppe sempre, da sempre, tutte le mattine passa a prendere il pane al fratello, come commissioni, se c'è da andare a ritirare roba, c'è da andare a città mercato, capito? Sempre, tutti i giorni, anche la domenica mattina, capito? Magari serve qualche cosa e vale lo spin, deve fare commissioni, e cosa devi fare? Dico, non si può muovere. Eia. Ma Nico apre la mattina, poi chiude così e riapre alle 6:30 di sera. Non lo so che ora c'è, so che alle 1:30 chiude. Ma sta sino a tardi aperto la notte, non è che chiude alle 9 come gli altri circoli. Capito? Quello è un posto ritrovo anche per gli universitari, per tutto, l'hai visto quanto è grande. Quindi chiude tardi, infatti la mattina apre alle 10, non apre presto. Sì, mi ha detto che chiude tipo alle 4 di notte, mamma mia, e c'è gente che ci sta fino alle 4 di notte, allucinante. Va bene, dai che continuo, prendo frutta adesso, eccetera. Sempre gente a voci c'è in strada, boh. Balordi, ubriaconi, mamma mia. Vabbè che adesso è in arrivo a Natale, quindi si scatenano. C'è lo spumante buono adesso. Dai, noi abbiamo preso qualcosina per il Natale. Non la roba là, non la carne, no. Quello domani o quando ci viene bene. Abbiamo pelato due panettoni, due pandori, spumante. Quelle cose lì, poi prendere un po' di torrone da Auchan. Ho gustato il torrone alle noci, quello di Tonara, fatto a pezzettini, cioè confezione piccola e un po' più grandezza. Volevo pigliare quella grande perché era veramente buono quelle noci. Cioè, alle mandorle non le senti, le mandorle, non sanno niente, ma alle noci proprio senti quel bel amarognolo della noce, molto buono. Io lo so, no, non mangio queste cose. Spumante non le bevo, perché ho il problema allo stomaco e roba gasata non le bevo. Solo vino rosso e buco. No, ma poi non ne ho mai approfittato. Anche l'anno scorso no. Proprio panettone, la rottura di base. E tu già fra a casa sì. Sì, e chi si muove? A casa con il termometro acceso, adesso lo spengo perché sono troppo caldo e niente, dovevo andare, è tutto un casotto, dovunque vai, non fai male perché troppa gente in giro, troppi imbranati, troppi casi, non trovo il problema, quindi meglio stare tranquilli. Bene, ci sono i cedini, ci sono i gatti, ci sono i cani che abbaiano, meglio di così. La campagna è bella per quello, qua già i cedini già cantano, c'è un bel giardino, c'è un silenzio, c'è la finestra anche aperta, c'è un silenzio allucinante, sta bene come te, no? Però io ho deciso di andare via. E quindi sto aspettando alcune cose, poi smonteremo tutto. Vai Marco, riprendi. Eia, l'albero l'avete fatto quest'anno, Claudio? Non ne ho mai fatto io di albero, l'ho fatto solo quando era piccola mia figlia, poi non ne ho più fatto. No, qua è sacro, tutti gli anni l'albero. Solo un anno mi pare abbiamo saltato quando mamma stava male, quando era caduta, che si era fatta male con una bottiglia, cadendo, praticamente è caduta di peso, col polso ha spaccato la bottiglia, le sono entrati i cocci nel polso, fino all'osso, mamma mia, una cosa allucinante, però sempre l'albero, sempre, anche se siamo due disperati qua, io e mamma lo facciamo sempre, poi questo è un alberino piccolino, è un albero alto, un metro e qualcosina, e non ha bisogno di luce, ha già le fibre ottiche, capito? Sotto c'è una lampada, un disco rotante e delle fibre ottiche, e quindi manda il colore a tutte le fibre ottiche. Ho messo due festoni, tre festoncini, li ho messo, poche palle, fatto l'albero e il puntale. E io, qualche natalino, ha detto non le fa. No, a noi piace, piace, magari presepe no, presepe meno, però l'albero sarà più luminoso, più, più carino. E tu Gianfra, oh! No, da qua hanno fatto proprio un albero di Natale, cioè nel senso di albero, hanno messo le luci su un albero e botte al secchio. Adesso dovrei vedere la quasi spazzata, che è abbastanza alto e individuale. Ma solo che chi c'è la notte in giro si vede l'albero. Ehi, ehi, comunque c'è un traffico al centro, è uno schifo, eh. Perché prima è Natale, tutto dicembre, anche parte di novembre è così, traffico, traffico, poi a un certo punto, proprio gli ultimi giorni, non proprio gli ultimi, già da adesso, se vai da Auchan, soprattutto il sabato, vedi una fila che arriva fino a Coso. Carità, una fila, è uno schifo, guarda, non riesci proprio a entrare e certe volte nemmeno a uscire e quindi bisogna evitare Auchan a quelle ore là, se uno va deve andare alle 2 all'ora di pranzo, quando tutti vanno a casa a mangiare, così faremo noi domani forse. Ok, va bene. E quindi Natalino, Natalino sei rientrato dalla Fainé? Aspettate un secondo, già riprendo subito, arrivo subito. Sì, oggi non, senti, non si è sentito nemmeno Gianniero più Roma, niente. Solo Valerio ha detto che una frequenza quasi deserta e che si vende tutto. Sì, però lì c'è per la 27 e torniamo oggi dall'altra parte, cosa bisogna prendere? Ah, una notte, giorni fa, stavo ascoltando, stavate parlando a mi pare 6625 o giù di lì. E appunto sentivo che ti lamentavi che non c'era, per il digitale non c'era proprio la voglia di usarlo. C'eri, mi pare, tu, forse Vittorio o un'altra persona. Lo stesso che ce l'ha ma lo usa poco, non piace, non lo so perché. E si usa poco. È così, dai, adesso non mi ricordo bene cosa avete detto, ci sono passati vari giorni, però era quello l'argomento, che tutti ce l'hanno e pochi lo usano, ben pochi. No, stavamo parlando sì, di digitale, ma il punto non è il digitale in se stesso. Il punto è che proprio non parlano, che è una cosa diversa. Se tu fai ascolto abbastanza costante, guardi un pochettino, vedi che insomma, ascoltare con queste orecchie ne vuole. Fai una spazzolata su tutta la banda, sia V sia U, se senti il link nazionale, senti parolacce, parnacchie. Va un po' meglio sulla rete nazionale e internazionale di ML, che è digitale, quella va un po' meglio, qualcuno lo può ascoltare a livello nazionale, ma nel complesso sono sempre pochi, ecco. Infatti sto ascoltando un italiano che è in Australia che sta dicendo ma come mai con questo splendido sistema che si può parlare con tutto il mondo gli italiani sono così assenti, e allora ha risposto perché la mano ce n'è capito, è per quello, o sono troppo vecchi o non ne hanno più voglia o sono demotivati, ci sono tanti motivi, capito? Però la 27 bene o male questo ci scappa sempre, è un po' più difficile. Sì, comunque io in memoria ho vari canali, a me non sa essere dintorni, se vuoi te li dico pure, vediamo un po', partendo dal primo, quelli che monitor con lo scan sono 145, 525, 430, 100, vabbè 431, 2375 lo mando in lockout perché spesso ho portanti multe per macchie. 145, 275, non lo so, forse era memorizzato perché ho sentito qualcuno una volta, 433, 500 una volta si usava di più, vabbè 433, 075 perché altro il monitor LPD, 145, 6625 che è un ponte, poi ho questo 0432 525, non so perché, forse se ho sentito qualcuno qualche volta, allora ho memorizzato subito. 145 350, non so se è un ponte, cosa è, se mi pare basta. Sì, ma non è un problema nei ponti, nei collegamenti. È un problema, ripeto, non è aperto niente a nessuno. Come dire, la maggior parte della gente, che ne so, magari si leggono il giornale, online e ci passa un'ora, poi si guardano il filmato e va via un'altra ora. Poi perché si stufano e se ne vanno, non stanno lì in radio, che ci sono sempre due faccioni. Quindi è così, non puoi fare niente. Come tutte le cose ci sono punte di traffico e punte proprio dove non c'è nessuno, sembra quasi un deserto. E questo sarà un periodo di anni in cui è un deserto, anche perché già lo sai, un po' in tutta Italia le sezioni rinviano in continuazione l'esame perché ci sono una persona, a volte anche mezza persona, e quindi qualche gatto lì è fatta per sbaglio. E quindi rinviano perché proprio non c'è più nessuno. Gli altri che ci sono oramai tutti vecchi rimbambiti e quindi cosa ci vuole fare? Oppure i nuovi, ma i nuovi che c'erano, dove sono tutti? Quelli che qualche anno fa, tutti non fanno niente, non, o forse sono in HF, ma in voi non ne sento. Io certe volte quando esco in macchina vado fuori, porto lo scanner portatile e l'antenna veicolare, però ogni volta dico, ma chi me lo fa fare a portarlo? Non c'è nessuno, nessuno. Oppure senti due minuti, tre minuti, che ne so, Walter con qualcuno e poi niente tutto il giorno. Prima era più assidua la cosa, ma spesso c'erano un gruppo di tante persone, qua si scordano l'un l'altro, visto. Vabbè. Non ne vale più la pena. Allora era meglio quando avevo ricevuto l'HF, almeno uscivi, qualcosa sentivi sempre, in 40, in 20, la sera in 80, a voglia. Poi l'ho venduto, vabbè. Meglio in 45 c'era più gente. Anche in 45 c'era più gente da ascoltare. Ma negli ultimi tempi, prima di vendere quell'apparecchio lì, non sentivo mai nessuno. Ho detto, ma anche i pirati sono spariti. Allora siamo messi male veramente. Ciao Antonè. Dopo che hanno arrestato quello lì, che ho preso, era, non so se era all'inizio, alla fine dell'anno scorso. Sì, sì, sì, che praticamente gli hanno sequestrato un apparecchio la mattina e la sera è entrato di nuovo in 45 con un altro apparecchio, così c'era scritto sull'articolo. Sono ritornati e gli hanno sequestrato anche questo. ma così proprio è, ma perché quelli sono vecchi radioattori magari o vecchi pirati che dice cosa mi fanno, ormai sono vecchio, non ho nulla da perdere. No, ciao Antonello, buonasera, la storia è un po' diversa, questo era in 45 metri e in 45 metri sono ascolta e prende qua. Sono sempre, proprio con frequenze assegnate, c'è tipo Santa Maria Radio, che è alle Canarie praticamente, che fa il traffico aereo nel cono d'ombra, che c'è tra l'Atlantico e tra gli Stati Uniti, Canada e l'Europa in pratica. E quindi c'è l'HF, il sistema ACAR, c'è tutto il sistema automatici per sapere dove sono gli aerei e avere i dati. Questi qua, anzi questo qua, chiacchierando con varia gente, disturbava e al ministero è arrivata una comunicazione da parte di una stazione radio inglese che li ha monitorati e l'ha trasmesso, visto che funziona dall'Italia. Ovviamente ha mandato tutto al ministro delle poste, che a sua volta ha allertato la polizia postale, sono andati col mandato, hanno dato sulla porta e adesso adesso l'hanno trovato davanti, questo vecchio che va a quasi 80 anni, ne hanno sequestrato tutto. Dopo un po' torna con il castello, ma guardate che continuano a sentire. Sono riandati questa volta con il vigile del fuoco, autoscala, ne hanno tolto l'antenna, hanno sequestrato tutto in un cazzo. E magari se muore prima le conviene, perché sennò le avranno messo una multa da capogiro, che di lì si tratta proprio di reati a livello di terrorismo, perché erano imputato di altro non mi viene, attentato alla navigazione aerea, che è un reato quasi di terrorismo. Sì, è quello, gliel'ho mandato io a Claudio l'articolo, che è proprio l'Ofcom inglese, Ofcom, così c'era scritto. Appunto si è lamentato con l'Italia, con il Ministero, che sentivano questo italiano lì, con le bande là, e stavano disturbando la navigazione aerea inglese. Caspita, figurati quanto viaggia il segnale. Eia, già è quello, sì. Sì, che poi è rientrato con un altro apparato, non so quanti giorni dopo, il giorno dopo, e sono ritornati. Forse pensano che essendo anziani non gli fanno niente. Dice, tanto cosa mi fanno? Magari la pena pecuniaria è grossa, però. A parte il penale. Magari il penale, cosa vuoi che gli facciano? Dice, con le Morendi. Vero Antonello, il pirata per eccellenza. Io posso dire in fronte che sono un pirata per eccellenza. Grazie a Dio. Sono a posto, sono tranquillo. Abusivo! Ebbene Natali, questa faina è mangiata? Veglia! Buona era? Buonissima! Dove l'hai presa? Mi è stato dato! Ehi Antonio! Dimmi, buona è questa faina! È buona, sì, la fa buona la verità. Il problema è che chiude presto, perché sembra che lì ci sia che ci sia l'ISIS lì vicino dove abiti tu. Prima chiudeva alle 10:30, adesso chiude alle massimo alle 9, ha pigliato chi prende, chiude tutto, va a far culo. Sì, basta pigliarsi una mitraglietta e così una sventagliata, ne ha dato. Ma è una vergogna, guarda. Quando io abitavo lì, in Teatro dei Conti, tutti chiudevo alle 10:30, chi a mezzanotte, chi stava anche fino a letto, non ne faceva nulla. Adesso alle 8:30 il coprifuoco, ma sta scherzando. Non si può più stare, sono tutti quanti lamentati, che non si può, anche tabacchina addirittura. Guarda, quell'ambiente lì, l'unica cosa è togliere questi che ci hanno messo, questi cazzo di negozietti, bar e circoli che hanno fatto questi extracomunitari nuovi, mandarli tutti via e metterci 6-9 all'asinale, almeno stanno bene con gli asili, perché è l'unica cosa da fare, lasciare solamente gli extracomunitari che c'erano una volta e basta, tutto lì. Il discorso è quello, almeno lì una volta si stava bene, c'erano solamente quelli, li conoscevi tutti i giorni, passavano, li salutavi, ci parlavi, compravi la roba, eccetera, eccetera. Adesso, ogni giorno accoltellamenti, ogni arì. Infatti io avevo sempre la questura, anch'io. Tra romeni e nigeriani è diventato un brutto posto il corso. Certo che la fregatura maggiore è proprio per quelli vecchi di extracomunitari, che sono scappati proprio da quella gente e adesso se la ritrovano anche qua. Purtroppo è così. Sì, è una specie di deserto. Non so se abbia chiuso Gambella, quello dell'armeria. Non lo so, non ho avuto più notizie. Non pervenuta. Però è proprio, come si dice, terra bruciata proprio. Peccato proprio. Vabbè. Allora Antonello, sei uscito stasera senza di me? No, sono uscito 10 minuti giù a dare una cosa qua sotto a Andrea e poi sono salito direttamente a casa. Certo, ci vediamo domani mattina, ti chiamo domani, così almeno ci facciamo un giro al limite domani sera. Adesso domani mattina devo uscire a comprare una cosa, insieme a un amico. Poi domani sera ci facciamo un giro assieme, ci vediamo una cosa, andiamo al limite dove ti parla. 17, ci diamo qualcosa e siamo tranquilli. Tanto a me la passiamo un po' l'ora. A me di stare dentro a casa a girarmi i potenziometri mi dà fastidio. Ormai sono tranquillo, ho capito. Quindi non me ne fate più niente, di nulla, di nessuno. Bene, e Giovanna come sta? Io sto bene, a voglia. Un piccoglione, ma è sempre Giovanna. Mamma mia, avere una sorella così però. Cosa che ti dica? E parla bene che c'è Gianfranco, me. Niente parolacce. Io senti, ho detto niente di male. Quando in televisione si sente poco di parolacce, per carità, specialmente mia, a Canale 5, Italia 1, alle Iene, dove di tutto si sente di più. E li picchiano pure da solo l'altro, buscano pure. Così bacchettone mi fai, Marco? No, vabbè, ma io, noi stiamo parlando normale, poi entra Pomponio, cazzo, merda, vaffanculo, non va bene, non va bene. Poi in ogni tanto già scantono anch'io, ma cosa volevo dire? Boh, della televisione, sì, vabbè, la televisione ormai sta scadendo molto, poi ogni volta che fanno vedere Sgarbi sempre a parolacce. Anche le donne offende malamente, anche le donne. Ma eppure certe cadono ai suoi piedi a Sgarbi, ma non lo so. Non ci metto parola. Natalino, faccio la palla a te, che sei navigato. Mi non mi vedi con il rim, sto remando sempre. Ma Natalino, sei stato contro se Sgarbi avevano messo in commissione per fare il... per dare il diploma per l'animatore, ti avrebbe detto capra, capra, capra, sei una capra. Comunque di pane in frasca, Marco, lo sai che la tua ragazza è sempre accampata giù? Hanno fatto una specie di tendopoli ora. Eia, ma io credo che quel vento forte di qualche giorno fa le abbia stracciato tutto. Io mi chiedo come abbia fatto a superare l'inverno e come farà a superare questo inverno. Cioè gli italiani la devono mandare via, non è decoroso anche in estate vedere tutta questa mondezza lì, questi sacchi che ha lì, queste buste. Boh. Te l'immagini? Adesso per Natale le portiamo il panettone e lo sfumante. Non ne vuole sfumante, è quella beve champagne, ha detto. Quindi sicuro. È quello caro. E lì vuole mi Don Perignon, capito? Sì, sì. Mi andiamo a dare uscire per quello di compimi, quel vinello frizzante mio, 1 euro, mi sembra che mi ricordo, 1,60 euro mi sembra che costa. È leggero e va anche bene, già rimbalza. Se no lo sfumante che c'è da cosa, a città mercato in offerta, 1,99 euro. No, quella vuole Mochandon, oppure e quella beve champagne, no? Si parla di possi portare uno spumantino, ma stai scherzando? È roba da plebei. Se prende lo spumante dell'asino, non va bene lo stesso, se per bianco è. Chi ti cantoneggia subito? Ma questa dopo di averlo vai, se ci va a lavarsi, a pulirsi, non credo la da fuori mare. No, si lava. E qui ci avrà anche dei pulci addosso, con tutti gli animali che ci avvicinano. E non solo, come dice, diciamo sempre, la ricotta mustia. Oh, l'altro giorno ho visto cosa, Marco, era una cosa allucinante, l'ho visto, aspetta, stavo scendendo al centro storico, l'ho visto invece quando i pascoli parlano da solo, con le cuffie bestemmiando, a quello che sta sempre correndo, a quello qualche giorno quando lo vediamo in giornale di infarto, guarda, come minimo. Ma chi è Rambo? È Rambo, è sceso sono scese le cuffie, quelle nuove che hai comprato, quelle bianche e rosse, no? Mi hai sceso in terra, stava parlando da solo. Brutto stronzo, sei caduto in terra, non lo voglio fare così. Adesso prendo e ti pesto in piedi, un cazzo ce l'ha questo qua. Ho comprato, non c'era nessuno lì vicino a lui, da solo stava parlando. È sempre i guantoni, no? Sì, i guantoni c'aveva, vai. Ma tutto sull'atto era, io mi dico, ma questo ho detto da se fosse stato il manicomio avrebbe ricoverato immediatamente, perché non è possibile, che non è una persona che era in giro quello. I pantaloncini, i conti, un freddo da crepare che c'era quel giorno, acqua perché stava piovendo, beh, lui in giro non ne poteva nulla. Ah, quel ragazzo sempre in tenuta sportiva, pantaloncini con la sacca, si porta la sacca dietro. Ma non è cincaro, no? No, non credo. Se non è tanto ragazzo, ma... No, infatti, non più. Quello se no ci avrà 60 anni, te lo dico io. Sono sicuro che ne avrà una 60 anni. Si fa le passeggiate, che sono una cosa, guarda, io lo vedo salendo qui, poi andando verso la zona del chilometro, cosa, tutto a piedi si va, tutto a piedi, senza tram, salita e discesa. Tutto sull'altro, il giorno che prende la blocco favorito lo troviamo disteso, guarda lì a pronto soccorso, perché ce lo metteranno nel giornale. L'ultimo dei moicani di Sassari, tanto gli altri sono tutti morti, li avevi visti, quelli che mettevano in fotografia. Antonio è malato quello lì. Lo so che è malato, ma quello non gli va di nulla, guarda, il raffreddore non gli fa niente quello. Io penso che quello non prenda nulla per il raffreddore, perché la cosa uscirà tutto sudato, un pantaloncino di costo, con un freddo, cazzo. Deve avere 3-4 gradi, tu lo vedi in giro, cazzo, girando, tutto sudato, non gli va di nulla. Conosco me, conosco il fratello, c'era un'auto con la ziria giù a Pedanerita e mi ha detto che la pensione è solo ritira la pensione, quella che ritira se la spende in abiti sportivi, capito? È molto malato. Comunque è bravo come tipo, non fa male, capito? Solo che la mattina presa in giro, se metti 4-6 cose, parlando da sole, correndo. Poi ha fatto anche un video su Facebook a poco, che stava facendo un girato, figurati. Scusate, ciao Franco, ciao anche a Franco Alba, buonasera a tutti, io sono ascolto, non ti chiamo per scusare. Di niente Maria, non c'è problema. Guarda, io lo vedo tutti i giorni, la verità. Se tu lo vedo a piedi, non lo vedo entrare, lui entra, non ci sale mai. Lui fa sempre, ogni tanto cambia, fa per dire, dal centro storico se ne sale quassù, poi da quassù scende di nuovo al centro storico. Poi dal centro storico a volte piglia e va a chilometro se ne va a Budi, capito? E stava tutto a piedi. È una cosa allucinante. Poi c'è quell'altro, l'altro è peggio ancora, l'altro è. Per il sindaco sarebbe sempre una cosa allucinante, quello che si mette a voci, che per carità, quello che abita in Renante, che voleva ammazzare il sindaco, ha detto, vuole ammazzare su lato l'ammazzo, qua e là, eccetera, eccetera, adesso che ritirava, aspetta, come lavoro faceva i tributi in pratica, poi l'avevano picchiato e da quel giorno è uscito di testa. Quel ragazzo che stai dicendo, quello che lo vedi in giro, quello lì abita a Santa Maria di Pisa, vicino al Pime abita, capito? Ok, mi prendo, tu l'hai scusato, tu l'hai scusato. Antonè, dimmi tutto. Quello anziano che è tutto rosso in faccia, che parla sempre del sindaco di Coso, quello mi hanno detto che era l'esattore di Porcella. Se tu non pagavi le latte, veniva dove eri tu, anche se avevi bottega, ti faceva lo scandalo davanti a tutti. Così mi hanno detto. E quello sto dicendo, quello è un altro, quello è peggio. Quello se tu lo vedi, non senti altra, cioè se entra in guarda, ti vengono le crisi politiche e te devi scendere, perché non è possibile. Senti solo a lui, non senti nessun altro. A voci, cazzo, a voci. Se tu gli metti un baracchino in mano a quello, guai. Solo il baracchino lì se prendi, mancami. Sì, è sempre a voci, non lo so, mamma mia. Ma io mi ricordo da 30 anni fa quant'era. Io credo, fatto, non muore mai, poi è sempre uguale, anzi lo vedi, è sempre uguale. E vabbè, già ce n'è un po' di gente scintillata, qua ne passa uno, c'è una parolaccione, brutta bastarda, così a voci messe, non so se ce l'abbia con la ragazza, c'è una specie di mezza scema, cioè mezza scema, c'è una ragazza che si è appresa a questo, che questo è fulminato, ha fulminato forte lì. Parolaccione, voci, tutti girati, tutti guardando. Ogni tanto passa qui, o a piedi, in bici. E così, lo senti anche quando gira in via Letretto, senti ancora a voci, a parolacce. E ho visto una ragazza presso a lui, ho detto, ma non finandi a frequentare i tipi del genere. Capito? I tipi più randaggi sono più li ci attaccano le ragazze. A volte capita, visto, Comunque c'era gente strana, la stanza, non è che non ce ne sia, sono rimasti pochi di quelli, i mitici diciamo, di quelli che hanno fatto le fotografie, eccetera, eccetera, quindi gli ultimi rimasti sono quei due, secondo me, perché gli altri non li ho più visti in giro. Antonio, fra un po' vedremo te a voce in strada. Voglio il feitong, voglio il feitong. No, dico, no, voglio la patente, non il feitong, voglio la patente, entro abusivo. Così me lo mettono in galera e mi danno anche la patente di rematore. Te l'immagini, cazzo? Gratis. Ma perché c'è ancora qualcuno che la può, la patente? Ah, io ma qua gratis la voglio, la verità. Me l'avevo chiesto se volevo la patente, gli ho detto guarda, non voglio manco gratis la verità, gli ho detto. Cosa me ne faccio della patente? Non me ne faccio proprio niente. La patente non c'è una patentina per la moto. Quindi voglio vivere tranquillo, gli ho detto. Grazie a Dio. C'ho un cane. C'ho il baracchino, senta abusivo già va bene, così come sono da 20 anni, grazie a Dio sto bene, non devo stare a sellarmi, né avere problemi né nulla, dove capita entro in 40, 45 e c'è in VHF, in U, capito, parlo da solo, al limite l'unica cosa che posso fare è un favore alle maturi, guarda, la verità è comprare un Bonfeng a Falcone e fare entrare a Falcone, quello lo posso fare come regalo per Natale, se Franco d'accordo glielo compro un coso, lo faccio entrare in 145-525, almeno ti fa compagnia un pochettino, ti fa il gioco della calzetta. Non ho capito l'ultima parte. Non si è accorto che praticamente non c'è più nessuno. Stavo dicendo, siccome non si trova nessuno in VHF, dalle amatoriale 145-525, ho detto, se tu sei d'accordo, gli ho detto, posso comprare un Bonfeng a Falcone, lo faccio entrare lì così fa il gioco della calzetta ai rematori, gli fa un po' di compagnia. Ma mica sono qualcuno del ministero dello sviluppo economico per dare a noi permessi a far entrare uno con l'altro. Fai quello che vuoi, a me non mi dica, come diceva quello, io te l'ho detto, io faccio di essere sviluppo, entro claramente, quando c'è qualcosa che mi interessa, se no c'è niente, c'ho altre attività, capito, dedicate a quel campo, al campo delle telecomunicazioni, quindi non dare quello che vuoi, un HF, un VHF, o in banda E, a chi se ne frega. Vabbè, io faccio un regalino per Natale, se lo trovo a fare Paolo, siccome lo vedo lo stesso altare, intanto glielo chiedo, dico guarda Paolo, ti regalo un apparecchio, guarda, te lo regaliamo tutti, abbiamo messo da parte tutti i CB, i Sassari, così entri, ci fai compagnia, ci fai il gioco della calzetta, almeno si riempie, torna la frequenza di gente, perché non c'è neanche un cane, ecco, almeno ci divertiamo. Non è più nessuno, è molto odio, almeno quando c'era lui, guarda, lo pigliavamo in giro, quello che è, si incazzava, la verità è, guarda, ci manca, la verità, ci manca veramente, almeno faceva frequentava un po' di gente, si divertiva, eccetera, eccetera. Ma penso che dica di no, è la verità. Si vedrà. Ehi, la sorella non vorrà darli nemmeno portateli, se no in PMR poteva entrare, poveretto. Almeno si passava. Perché l'hanno visto più volte da Sanit, è possibile che sia ritornato lì ad abitare, di fronte a Tanit. Poi chi lo sa. Capito? Un bau bau per parlare in PMR. Almeno poveretto alla compagnia. Non esatto, perché poi ti prendi la responsabilità di quello che le può capitare. Capito? Perché comunque rimane il fatto che di una persona che non è in sé, ecco. E questo non fa onore a chi sta dicendo queste cose, quindi è come dare una pistola a uno che va messa in bocca. Non è una cosa molto molto seria, ecco. Franco! Dimmi Mari, ciao, buonasera. Ah, già mi hai conosciuto, sì. Se lo chiedo un'informazione, ma tocco ogni atto, in pensione ce n'è andato. Prossimo anno, se non mi mandano anche a lui qualche IFM con i saldi in su di soli. Ah, e pensavo che già in pensione. Saluta una parte mia, la parte di Marino, le dice, sono parecchio, già un paio d'anni che non lo vedo. Ok, continuate, sono ascolto, scusate solamente, avanti. Aspetta, sono tra l'altro un secondo, due minuti. Ok, ciao Ari, buona serata, fatti sentire ogni tanto. Marco, hai capito come finché si è ragazzini senza cervello vanno bene quelle cose, quando siamo un po' più grandi, siamo un po' esperienza di vita, è meglio lasciar perdere, che potresti far del male senza rendersene in conto, e poi c'è anche sulla coscienza. Scusa Marco, un attimo. Frato, ricordi la R950? Non ho capito, se non lo ricordo. Non ricordi quell'apparecchio che me l'avevi ordinato? Qualche anno fa. Io non me lo ricordo, no? Cos'era? Era uno scanner AR950. Ce l'ho ancora e funziona ancora, ce l'ho qua davanti, e va abbastanza bene per il momento. Quanti anni è? Sarà più di 20 anni più o meno, no? Infatti è per quello che non me lo ricordavo. Sarà più di 20 anni, sì, sono pure. Stavo stazionando pure 30. Esatto, tu abitavi ancora nella casa dove i tuoi, dopo ti sei trasferito da un'altra parte, e funziona ancora, e c'ho qui davanti e va veramente bene, uno nuovo come l'ho preso, prima l'ho scatolato, adesso è tutto, ho fatto la stazione normale, va benissimo, ho detto lì, almeno questo, c'ho il ricordo di Franco, ok, va bene, riprendi, oh Marco, scusa. Ehi, signori, dai, sono le 20:38, io chiudo. Ok, mi guardo un pezzo di Striscia Notizie e poi vediamo se c'è un film degno di essere visto, ok? Se no me ne guardo qualcuno dei miei in DVD. Quindi ciao Marino, ciao Antonello, ciao Gianfranco, ciao Claudio se ci sei ancora, ciao a tutti, dai. Sentiamo domani o quando capita, ok? Ciao, è arrivata gente, ciao a tutti, ci sentiamo domani. Ciao, che te, Cla, salutoni, ben sentito. A domani, non c'è problema. Ciao Claudio, buonasera. Ciao, poi ho sentito anche a Marino, ciao a tutti. Ciao Claudio, ciao Marco, ciao anche a Gianfranco, ciao Antonello, non è un buon ascolto per chiudere anch'io là. Ciao a tutti. Ehi, ciao, a domani, buonanotte a tutti allora, buona cena, Asmi, adesso facciamo la cena, e mangiamo io e Tommy. Ciao Antonello, ciao. Ciao. Ciao Fra, salutone per te, buona cena. Ciao Mario, ciao Antonello, anche a te buona cena, ho già cenato. Antonello, ieri sono passato dopo un po' da in quel negozio là, che sai, no, dopo c'è Giovanna. Ma ancora in attività? Sì, ma dice che sta... Cioè, non sta guadagnando un accidente adesso, questo periodo, quindi è mezzo messo male. Stava chiudendo, ha riaperto e stava guadagnando bene, tutti i giorni pieno, adesso invece che in pratica è rimasto aperto, in pratica cioè sta andando male perché se è andato via un pizzaiolo, poi se è andato via il cuoco e cose del genere, evidentemente c'è qualcosa che non va, hai capito? Se sono andati quasi tutti, l'unica che è rimasta è mia sorella e poi c'è il cuoco che c'era prima che si è andato lì a lavorare. Come si chiama? A fanculo, quella chiesa che c'è lì a, scendendo a Saccaggia. Ah sì, sì, sì, però io stavo parlando di quello di Sassari, dell'elettronica, che anche quelli di San Giovanna, quella lì, capito? Che è ancora attività, però sono diventati carichi al sangue. Ma che usai? Fusaro. No, Fusaro non c'è più nessuno, sono passato stamattina. Ora sono arrivato lì, non c'era Antonella, non c'era signora Giovanna, non c'era manco in pratica la moglie di Fusaro. C'era solamente Mazza e basta. E quindi stavano male, non c'è più nessuno, oramai è. Secondo me, guarda, fra 6-7 mesi, massimo l'anno chiuderà tutto, se Cantarello non ci sta più andando, lui appena arriva prende, se ne va al circolo, si beve il vino, se ne sta lì, tanto non c'è più nessuno, cosa ci sta a fare? Oramai lui va in pensione di tirarsi un bel busto, cosa ne è forte lui rimane nel negozio? Non è più obbligato, lui c'era l'età di, se non mi ricordo male, di 18 anni lì, figurati quanto gli tocca di tutto. Quindi non ne fate più niente. Sì, ma sono arrivato anche a 7 anni in camioneranno. Tieni presente che adesso ci vogliono 42 anni per andare all'anzianità di pensione. E penso che lui non abbia 60 anni. No, 60 anni non ce li ha, però i contributi ce li ha parecchi. Lui è da piccolino lì che sta lavorando, che è per conto di Vittorio, quindi secondo me lui ha raggiunto quasi l'età per andarsi in pensione, quindi non ne fotte più niente. Se tu guarda, se vai lì in negozio, sai dove lo trovi? Lì al circo lo trovi, a fianco al negozio. Ma lì si beve un vinello, poi rientra, se c'è qualche cliente gli dà la mano, se no prende e se ne va a tornare in giro. E prima te lo ricordi, signor Giovanni la faceva a pizza, la faceva Antonello, sempre lì al circolo, devo andare a cercarlo, devo andare. Si incazzava, adesso invece non, siccome non c'è più clienti, quindi non sta più facendo arrivare quasi nulla, dai. E come tu la GBC è diventato, il tale uguale, componenti ormai su internet e basta. Qui adesso ci siamo morti, stiamo arrivando a livello della Corsica, tutto lì. Prima i corsicani venivano qui a comprare i baracchini e i componenti, adesso invece fa poco vedrà che noi andremo su internet a comprarci la roba, perché il fatto qui a Sassari senz'altro chiuderà, perché non è possibile. O vendo una cosa o vendi l'altra. Torino ha fatto la scelta di vendere, cioè il componente non lo vende più, se vai a chiedere. Quindi non ne fate più niente. Fusaro è l'unico che ci è rimasto, Melchioni ha chiuso, ha fallito e non si sa che fine abbia fatto la roba che ci aveva, forse magari l'ha data quel ragazzo che dietro a Cesaraccio, se mi sbaglio, dietro quel panificio, insomma, cosa a Cesaraccio o da Caprone, ha aperto il negozio lì e fa rivendita di tutto. E come di tutto Antonene? In che senso? Io conosco operativi, ma soltanto via di antenne, roba del genere, coso, c'è Giorgio Grassi che sta resistendo e poi quest'altro non lo so dove si trova. Ma qual è quello che c'era in Costa Angiui? Sì, quello in Costa Angiui, quello si è trasferito dietro al panificio di Calvia, non c'è solaccio, il panificio di Calvia. In pratica si è separato da Giorgio Grassi e si è andato lì per i fatti suoi, però la verità non so se vende a componenti, componenti elettronici e roba del genere. So che lui è lì per la pubblicità, c'è su subito di Giubito che c'è, quindi c'è lui, quel ragazzo lì. Non so se vede antenne, se vede blu, non posso dire, non ci sono mai andato. Neanche io, infatti mi meravigliavo. E allora c'erano tanti, c'era anche quello là di via Principessa Maria, c'erano quella di Capuzzino, ma insomma c'era sempre gente. Insomma, una volta già ce n'era. Poi ha iniziato la GBC a fare dei colpi che sono diventati carissimi. Mezzioni era un pochettino meglio, ma poi anche lui ha chiuso. E la GBC mi sa che sta tirando a campare, ma proprio così, sta invecchiando come Tonino. Quindi, è così. Antonio, mi ha detto veramente chiaro, Antonio, scordati i componenti elettronici per baracchini, per cose, non le faccio più arrivare, mi ha detto, dice, arrangiatevi su internet, mi ha detto, basta, dice, non le voglio più sapere, vado su, preferisco vendere altre cose, mi ha detto, basta, mi ha detto chiaro. E allora una cosa, prendi, detto, arrangiati, cosa vuoi ti ricca, ho detto, cosa vuoi ti ricca, Fusaro e oggi non ce l'ha con cane. Perché sono entrato, non c'era neanche un cane alle 4:30. Ormai anche lì c'è bric, come c'è un sacco di negozi che vengono antenne per poco prezzo, lo sai, 9 euro, 12 euro, quello che è, no, 25, quindi la gente va lì e va a fanculo, discorso c'era. È cambiato tutto. E quindi arrangeranno, non lo dico. Finché campano, dopodiché chiudo, ma è per la fine del chiudi. Il discorso è quello lì. Fatto sta che non può cambiare nulla, ma i tempi sono cambiati. Perché Antonio, sabato sera apre Fusaro? No, sabato mattina è aperto Fusaro, stamattina era aperto fino alla 1. Io sono andato lì, ho comprato due transistor, li ho trovati per culo la verità. Mancava il cappaia, se l'ha segnato, ma lo vedo fa 6 mesi, un anno, quello che è, già lo sai, era come 1969 che sono riuscito a farlo arrivare dopo 6-7 mesi, io lo piazzo, non funzionava nemmeno. Un euro l'ho pagato. Poi GBC è diventato un magazzino, pieno di scatole in mezzo all'entrata. E poi a sinistra, nel bancone di sinistra, tutto scatole dietro, un mottinaggio è diventato. E poi io l'altra volta ho chiesto adattatori, da SMA APL, che ne so, da SMA 239, niente, non ne hanno, uno, ne aveva uno, ma l'ho pagato 4,50 euro. Perché Media Globe ce li ha tutti quelli che voglio io, lo sai, Media Globe. Io mi sa che mi faccio un ordine unico, pilo un po' di PL, avevo anche i PL in bacchelite, anche se vabbè, a me uno me ne serviva adesso. Me ne compro un po', mi faccio un piccolo acquisto di adattatori. E quelli non sono mai troppi quelli là. E va bene, scusate, sono entrato così. E purtroppo a Sassari, cosa vuoi fare? Vanno a cambiarsi le pilette dei telecomandi, quelle cose lì, ma roba grossa, infatti non le comprerò più da questi negozi tipo GBC. Io ci vado sempre per fesserie, proprio per lampadine o per adattatori, niente di grosso. Però ricordati con l'attacco mio, Marco, domani ti do i soldi, così me lo ordini, quello per il digitale e così l'uso, capito? E sono a posto. Dopodiché me lo vuol dire anche un apparato, l'V5 più plus, se non mi ricordo male, si chiama. Devo dire anche quello per Giuseppe, me lo compro per Natale, gli faccio un regalo e quindi sono a posto. Ma Giuseppe non arriva da nessuna parte, boh, alla fine mi sembra anche sprecato, non arriva manco a me, giusto a te arriva, e boh, vabbè, vedi tu, dai, Dunque sì, quello non ce l'hanno a Sassari. Doppio maschio SMA. Oh no, guarda nel catalogo, niente. Tutto Media Globe, lo prenderò da Media Globe. Capito? Purtroppo io mi devo conservare i soldi per la moto, ma ho visto che non c'è niente nemmeno adesso, nemmeno a Natale. Niente. E quindi, vabbè, prenderò queste piccole cose necessarie, dai. Figlia, guarda che l'antenna che avevo regalata io a Giuseppe per mettere la sera in casa, non aveva la macchina, quindi appena adesso sistemo, fa un paio di giorni di bel tempo, ti sistemo il palo, l'abbiamo 26 pelle, gli metto quell'antenna che c'avevo io, la diamo, gli piazzo quella, se li portate, così almeno lo sentiamo, e parla anche lui di lì, è tranquillo. Capito, si compra il cavo, fa poco adesso, quindi siamo tranquilli, ho regalato io l'antenna, ho detto va, troppo che viene l'antenna, gli ho detto, se lo faccio come regalo per Natale, mi ha dato una mano grande, e poi gli piglio il portatile, come quello che ho io, lui vuole nuovo 5 e le plus, quello che ti segna la frequenza, cioè la cosa, ti segna la cosa un display, capito? No, quando a 16 canale, quando 16 canale quello me lo tengo io, me lo metto dentro la scatola, poi lo prendiamo anche a quel imbecille dal corvo e me lo metto nello scatolone, e quelli due me li conservo. Sì, già lo so qual è il 5R Plus, lo so benissimo, e comunque ancora è ben riuscito, molto ben riuscito, non viene assorbato dalle antenne esterne, né veicolari né fisse, buona scelta, dai. Stavo chiedendo il pollo, dimmi cosa stai dicendo? Nulla, nulla, Gianfranco vai tu, dai. Anche io sto ordinando da fuori, ieri infatti mi è arrivato due pacchi da 10 di DNC dall'Inghilterra, in 4-5 giorni erano qua, li ho comprati tramite Amazon, poi ho preso DPL, quella roba lì, tanto qua ho visto che non fa. Stavo dicendo, Antonio, sono andato a pesare ieri due spinotti di alimentazione, mi ha chiesto 4 euro, sono andato a bocca aperta, se vado al cinese saranno per 1 euro 2, e che erano, tanto non andavano neanche bene perché erano troppo stretti, quindi non c'entravano uno spinotto, sono dovuto arrangiare in qualche modo, però sono esagerati, proprio, oramai non fa neanche entrarci. Come sto dicendo, era vuoto stamattina, sono andato io per comprare due componenti, un integrato e un transistor per un baracchino, e quindi ho speso 5 euro, non c'era nessuno, quando sono arrivato è uscita fuori Marta, poi è arrivata signora Giovanna dopo 5 minuti, dopodiché la moglie di Vittorio. Antonello è al bar, già lo sai, al circolo vicino a fianco bevendo vino, quindi non ho mai diventato un deserto, non c'è più nessuno, e cosa stai a fare lì? Il discorso è quello. Va bene, io faccio il bianco, mi vado a cenare, sentiamo dopo, là. Se ci siete, al limite ripeto fra un 4 ore, il tempo di mangiare e sto arrivando. Di traverso, io chiudo, dai, mi attacco alla TV, ciao definitivamente, ciao ciao ciao. Domani, la TV l'ho comprata nuova, l'altro giorno, 43, da Media World. Ah, da Media World hai visto, hanno cambiato tutta la disposizione del negozio, non ci stavo più capendo niente. Per trovare un adattatore da SMA a stereo 3.5, tutto cambiato, e le casse ti fanno andare uno per uno, come la farmacia, c'è una linea per la privacy, e io ho detto, c'erano gli altri clienti lì con me, ho detto, ma manco se stiamo comprando preservativi in farmacia, con roba un po' di cui vergognarci. Adesso la privacy anche le casse, ma per carità. Tutto è fila indiana, te lo so, già l'ho visto anche ieri. Non ti preoccupare. tutti i fine indiana eravamo in 15, hai capito, quelli delle case per i cazzi loro, uno si andava a destra, uno si andava a sinistra, e quindi gli ha giocato, aveva la borsa giunto a fare così, no, e già guarda, già pronto andando io e Giuseppe, la verità. Poi ho detto, ti aspettiamo, ma fa culo, 10 minuti, un quarto d'ora, ha detto, mi piglio questo cavo di televisore, glielo pago, e se la tocca in culo, è fatto, fatto così. Ho preso un 47 pollici, smart TV, a LED, e 500 euro ho pagato. E me lo, poi sono venuto qui e mi sono pigliato, addirittura mi sono pigliato anche una stufa bella, ce l'avevo, sa poco scalda. Di quelle piccoline, ho pensato di mettere il televisore, funziona benissimo, c'è un attacco satellitare per il satellite, l'attacco normale TV, poi c'ho le smart TV, c'è Facebook, YouTube, tutto, non manca niente. Ho capito, dai, ti stai sputando tutti i soldi. Beh, 1200 euro non ce l'è così in un giorno solo, eh. Non ho detto, fai quella domanda e tu no. Cerca di capire, Antone, io non voglio truffare lo Stato, capito? Non voglio figurare di risiedere lì e poi invece stare qua. Non ci siamo capiti, no? Io questi sistemucci non li uso. È come quelli che si mettono il collare, li toccano appena appena, si mettono il collare e non hanno niente, capito? Ci fanno pagare 3.000 euro. Sì, ma io ti stavo parlando una domanda vecchia, la nuova non puoi farla, che tu non hai 55 anni, quindi non puoi fare niente, ma con la domanda vecchia tu ci entri tranquillo. Io ho 3 mesi tutti in un colpo come l'ho fatto a me, quindi non ti devi preoccupare di quello lì. Poi vabbè, tanto sugli usi li fanno per forza, quello è per legge. Per qualsiasi cosa, per avere il posto di lavoro, per avere, poi il fuoriuso ormai devi farlo, è come fare il certificato di residenza, che devi scrivere tutto, se c'è la moto, se c'è un'auto mobile, se c'hai una casa, quanti fondi bancari, di tutto ti chiedono, quindi non fuggi più, ormai non fuggi più, il discorso è questo. Il fuoriuso vuole stato per forza, Marco, devi farlo per legge. Perché ormai ti troveremo un ben male senza Fuori Luise. Ci vuole per forza se vuoi andare a lavorare, non è che ti pigliano così, tu trovi un lavoro per dire, e ti chiede Fuori Luise, chi lo conosci tu, dici? A un certo punto dice no, mi faccio Fuori Luise, se lei supera tale il reddito per dire, il lavoro non ce l'ha, il discorso è quello lì, non glielo possiamo dare. Purtroppo funziona tutto così, non l'ho fatto io, l'ha fatto bene tutta questa togliata del coso, per inculare a tutti, il discorso è quello di Marco, non è che si è truffato nessuno, sono normative purtroppo che ci sono e dobbiamo rispettarle. Se vuoi lavorare, se vuoi avere un lavoro, se vuoi avere la pensione, ci vuole sempre Fuori Luise, tutto, sempre lì ci vuole ormai, per questa storia qua, purtroppo non ci puoi fare niente. Sì, quello pacifico, ma io non ho diritto a alcun, non ho diritto a ricevere alcun soldo, ne abbiamo già parlato, la residenza ce l'ho qua e rimane qua, non vado a metterla in un monolocale per poi stare sempre qua, non lo voglio fare quell'intrallaccio, non mi piacciono mai queste cose, poi se ti beccano è un casino. Ma mica la puoi fare lì, la puoi fare lì la residenza. Tu vai al CAF, gli metti la residenza lì, però gli dici che vivi da solo. Logicamente ne devi uscire dallo stato, ma nello stato di famiglia di tua mamma sì. Se risiediamo tutti e due qua, abbiamo lo stato di famiglia, che figura sullo stato di famiglia. Io intrallacci non ne faccio, non ci siamo capiti. Ho fatto l'esempio di chi gli fa il tic da dietro, si mette il collare e ci fa pagare 3.000 euro. Io non vivo di sistemucci. Te capì? Scusate, io sono andato via, buona serata a tutti, ciao. No, non te ne andare, ci dobbiamo assillare adesso. No, devo scappare, Marco, ciao. Buona serata a tutti, ciao Natali, ciao a tutti gli altri, alle prossime. Ciao Gianfra. Io non ti sto dicendo di sistemucci. Guarda quanto ti mettono di reddito a gennaio, lo fai, perché fare lo devi. perché intanto tua madre c'ha solo il reddito della pensione, la macchina che è intestata tua mamma. Sì. E quindi non la devi dichiarare, a chiedi mamma tua. Tu non possiedi nulla, la moto possiedi. Ha intestato a te la moto? Sì, purtroppo l'ha voluta intestare a me. E allora quella la devi dichiarare. Sì, io la dichiaro, io tutto per legge faccio. No, che Pomponio mi, te l'ho detto, mi aveva suggerito quella cosa, di figurare di abitare in quel monolocale e invece stare a casa di mamma. Così magari fanno accertamenti e diciamo, ma come mai questa vive a casa della madre e c'è la residenza là? No, questi trucchetti non funzionano più ormai. Va bene, comunque sono le 9, dai, fatemi andare che c'è il film, dai, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. E comunque ha detto tra noi, non lavorerò più. Primo perché il fisico non me lo permette. E poi perché tanto non te ne danno così. Io quando ho lavorato nella vita ho lavorato solo in nero, perché sono i farabutti tutti quanti. A domani. Ciao, ciao Marco. Pomponio non risponde, ciao Antonello, ciao. Pomponio se n'è andato a prendere la mangiata in porto, ci siamo fatti.